Incontri di Gianfranco Fabi. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Buongiorno, buongiorno e buona domenica a quanti ci ascoltano. Con queste note di Father and Son, di Cat Stevens, iniziamo l'incontro di oggi, l'incontro con Carlo Fratta Pasini. Buongiorno, Presidente Fratta Pasini. Buongiorno e buona domenica. Carlo Fratta Pasini è presidente del Banco Popolare e ci ha suggerito lui questa canzone di Cat Stevens. Che cosa le ricorda? Ma, mi ricorda tempi ormai molto lontani nei quali così assieme a mia moglie cominciavamo ad affacciarci ad un tempo, no, alla vita della famiglia, alla vita della professione, alla vita del lavoro, diciamo alla vita adulta. Alla vita adulta lei è avvocato e banchiere, ma ha appunto nella famiglia uno dei punti forti della sua esperienza. Una moglie, tre figli, tutti con la stessa moglie? Sì, tutti con la stessa moglie, anch'io, come qualche collega ama dire. Come qualche collega ama dire, infatti. E quindi la famiglia è uno dei suoi valori, uno dei suoi principi. È una famiglia che in questo momento ha un po' qualche difficoltà, come istituzione. Certamente la famiglia, come altre istituzioni, riflette una serie di fragilità, no, di tutta la società e degli individui di cui è composta. Al tempo stesso è una forma così elementare ma diffusa di solidarietà, di sussidiarietà, di relazioni, che ha un effetto anche poi a livello sociale e macroeconomico importante nel nostro paese. Io sono ritengo che certamente, insomma, comunque la si guardi, la somma di questi effetti è largamente positiva. Ecco, la famiglia è ancora un elemento centrale, un elemento costitutivo. Lei ha tre figli, qualcuno di questi farà il banchiere? Penso proprio di no, nel senso che credo che il loro padre è diventato banchiere o bancario quasi per caso, no? Io dico sempre, quando devo riassumere il mio curriculum, dico ha provato a fare l'avvocato, che è un mestiere difficile per tanti anni, poi quando ha visto che non ci riusciva è finito in banca, no? Come spesso succede agli avvocati che non hanno grande fortuna. C'ho un figlio che studia, certamente, che ha fatto un curriculum qui in Bocconi, oggi è a Fontainebleau in Francia per un master, che potrebbe anche andare a finire nel sistema finanziario. Non so se augurarglielo in questo momento, ma magari a farle concorrenza in qualche banca. Certo. Ecco, avvocato e banchiere. Ci sono molti avvocati che fanno anche i banchieri. C'è qualche affinità elettiva tra le due professioni? Credo di sì e di no, nel senso che il banchiere è un lavoro molto diverso. Rivestire un ruolo di presidenza in una banca, quindi non un ruolo operativo, è già un ruolo di rappresentanza, diciamo, che invece ha o può trarre giovamento dalle esperienze che si fanno nel mestiere dell'avvocato. Ecco, quindi il banchiere è indubbiamente un mestiere complesso, è diventato più complesso negli ultimi anni probabilmente. Diciamo è diventato più articolato, no? Quindi ha perso quella visione d'insieme che aveva prima il banchiere, la figura del banchiere di tutta l'attività della propria azienda. È diventato complesso, articolato, si è specializzato, si è scisso in lo stesso processo, no? Per esempio creditizio è stato diviso in tanti piccoli pezzi con tantissimi specialisti, ma si è persa la visione d'insieme, si è perso anche probabilmente la percezione di quelli che sono gli effetti sia nel piccolo dell'attività bancaria, cioè la soddisfazione del cliente e il vantaggio per il cliente, sia nel grande l'effetto sistemico di certe pratiche. Comunque il banchiere ha una grande responsabilità, soprattutto una banca come un banco popolare, ma una banca popolare, ma anche tante altre banche, le banche complessivamente hanno una grande responsabilità per rispondere alle esigenze dei territori in cui operano. Come conciliare l'esigenza di essere nel territorio e di avere un'ambizione poi di essere una banca nazionale o addirittura internazionale? Ma questo è stato un pochino il leitmotiv delle banche popolari in generale, della nostra e di qualche altra banca popolare in particolare, è stato il segno, la dinamica che io ho trovato nella Banca Popolare di Verona quando sono entrato e a cui ho cercato di dare continuità, che era proprio l'idea che partendo dal territorio si potesse coinvolgere altri territori, altri radicamenti territoriali, altre storie di banche e di comunità, e che si potesse riuscire a costruire un gruppo bancario che mantenesse l'identità cooperativa e quindi il voto capitario, la partecipazione dei clienti, il rapporto anche mutualistico con la clientela, e al tempo stesso che potesse avvalersi di tutte le economie di scala e di scopo che derivano dalla grande taglia senza perdere questa prossimità e questo approccio localistico, diciamo, all'attività bancaria. Ecco, tornerei un attimo proprio al territorio, a Verona. Lei è molto legato a Verona, è una famiglia storica, nobiliare per la realtà veronese. Quale particolarità può descrivere di Verona in positivo rispetto ad altre città? Non certo facendo una graduatoria di merito, però cosa contraddistingue la veronesità? Quando si parla nella filastroca dei veronesi si dice tutti matti. No? Quindi in questo senso una certa disponibilità sia al divertimento, nel senso di ironia, di autoironia, di non prendersi mai troppo sul serio, però anche matti perché certe volte, diciamo, non abbiamo il timore magari di affrontare anche progetti piuttosto alti, piuttosto difficili, lontani, complessi. Cioè il veronese, forse la veronesità è fatta proprio di queste due dimensioni, no? Il non avere timore di affrontare anche cose complicate e poi l'avere anche il senso della misura anche quando magari si riescono a risolvere. È un veronese veneto però che sente molto l'attrattiva un po' di Milano, un po' dell'Emilia, un po' del nord, quindi è una città che resta un crocevia comunque. Ma certamente questo è la fortuna e anche il limite di Verona, no? La fortuna perché essendo da sempre crocevia di vie, oggi si chiamano, no, i corridoi europei, siamo all'incrocio proprio del corridoio nord-sud, est-ovest, fa sì che il veronese per forza di cose tende a dialogare con chi ha a nord, a sud, a est e a ovest, o a destra e a sinistra, sopra e sotto, no? Quindi con la Lombardia, col Trentino, con il Mantovano che è già una Lombardia mezzo emiliana, come diceva lei. Questo è una forza perché certamente dà questa apertura, è un po' un limite perché poi dal punto di vista politico Verona è veneta, e questa però proiezione al di là dei confini politici rischia di tenerla un po' isolata nell'ambito proprio della politica regionale. Venezia vi dimentica un po'? Ma certamente il baricentro della regione veneta tradizionalmente, diciamo, è da molto tempo lontano da Verona, nonostante che la regione veneta sia nata con un presidente all'epoca, Angiolino Tomelleri, che era veronese ed è stato primo presidente della regione per tanti anni, ma dopo quel debutto direi che Verona è diventata sempre più lontana, ecco, rispetto al cuore politico e al cuore amministrativo del Veneto. Incontri. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. Con queste note di Cat Steven, note molto dolci ma anche molto forti, riprendiamo il nostro incontro con Carlo Fratta Pasini, presidente del Consiglio di Sorveglianza del Banco Popolare e anche presidente dell'Associazione Nazionale tra le Banche Popolari e presidente della Fondazione Zanotto. Zanotto, un nome che le ricorda qualcosa? Ma è stato per me una figura chiave nella mia vita, era presidente della Banca Popolare di Verona, ma era stato prima sindaco per tanti anni di Verona, presidente della provincia, vicepresidente della Società Cattolica di Assicurazione e poi per quasi 20 anni presidente della banca. E mi chiamò nel consiglio della banca nel 94 e poi 5 anni dopo sono stato, abbastanza inopinatamente per me, ma chiamato a sostituirlo. Quindi una figura che ha cambiato la sua vita anche da un profilo di valori? Ma penso di sì, sicuramente. Zanotto era un uomo politico democristiano, ma era soprattutto era stato un uomo politico, perché poi quando entrò in banca abbandonò la politica, però era certamente un cattolico fervente, un cattolico che ha fatto moltissimo nell'economia, e credo che averlo seguito, averlo visto, aver seguito anche il suo esempio concreto, certamente ha avuto influenza non solo in quello che ho fatto, ma anche in quello che ho pensato e quello in cui credo. Quindi crede che sia possibile avere questi valori e fare il banchiere? Lei dice che è molto bello fare il mestiere di banchiere, il mestiere di fare banca, una sua bellezza perché riesce a trasformare appunto anche i capitali in valori. Ha una bellezza che però ovviamente è anche una grande responsabilità. Quando dico che è un mestiere bellissimo, lo dico innanzitutto perché è un mestiere di relazione, no? Un mestiere che è fatto proprio parlando con la gente, sentendo la gente, cercando di intercettare i loro bisogni in termini di sicurezza, di gestione del risparmio, i loro bisogni, i loro progetti in termini di finanziamento e di crediti. Ecco, soprattutto quest'ultimo aspetto, io dico sempre, la banca può rendere vero ciò che è soltanto possibile, può renderlo reale, in qualche misura può dare consistenza, ovviamente non ai sogni, perché sennò perderemo i quattrini che prestiamo, ma i progetti, no? Che bisogna valutare con grande rigore. Ma in tutto questo, proprio in questa propensione, diciamo, verso il futuro, verso il possibile, una dimensione che oggi spesso si perde, invece il mestiere di far banca ci costringe in qualche modo, no? A essere proprio orientati, focalizzati sul futuro, sulle possibilità, su quello che può essere e senza l'intervento della banca potrebbe rimanere a non essere. Ecco, questo è l'aspetto che a me sembra più affascinante e più bello dell'attività della banca. Lei è da 15 anni nel Consiglio della Banca, da 10 nel Presidente. In questo periodo quali sono stati i momenti più significativi, ma anche in cui ha dovuto tirar fuori un po' di coraggio? Guardando questi 10 anni, certamente l'andamento dei mercati finanziari troppo positivo, no? Nel primo periodo e poi oggi molto negativo, difficile, quindi ha fatto sì che magari i momenti più fortunati, più belli si siano accumulati nella prima parte, oggi momenti difficili sono nella seconda, ma certamente diciamo momenti complicati ce ne sono stati sempre, perché poi sia non solo le acquisizioni, quando no, le trattative lunghe, le notti passate magari intorno a certi progetti competitivi. Ma l'acquisizione della Banca Popolare di Novara non è stata un passo molto facile. Beh, fu una fusione, diciamo, fu la prima operazione che affrontammo, nella quale io ero presidente. Era un'operazione che certamente spaventava, perché allora la banca... Anche perché era più grande. Era in quel momento, diciamo, come asset gestiti più piccola di noi, ma diciamo era stata non solo la più grande banca popolare italiana, ma la più grande banca cooperativa europea negli anni 60. Quindi fu un'operazione in qualche misura coraggiosa, anche fortunata, ma sa, come diceva mio maestro, la differenza fra il coraggio e la temerarietà è l'esito, no? Quindi si sa sempre dopo. Ecco, col senno di poi comunque l'operazione è stata un'operazione che è andata a buon fine, che rifarebbe, che ha dato solidità anche al vostro istituto, che ha permesso di allargarvi e di iniziare anche una pur graduale ulteriore fase di acquisizioni. Certamente, poi abbiamo diciamo lavorato, soprattutto quella fu un'acquisizione che ha detto una dimensione diversa al nostro gruppo, lo proiettò ai vertici della categoria delle banche popolari, certamente un'operazione invece che io credo non errata nei presupposti, come la fusione che abbiamo fatto recentemente, con più recentemente nel 2007 con la BPI, ma certamente meno fortunata nella tempestività, nei tempi, e forse costruita, diciamo, con quello che poi si è rivelato un eccesso di ottimismo nella continuazione di un trend macroeconomico che allora era evidente, ma che di lì a poco sarebbe cambiato in maniera piuttosto netta e brutale, no? Tutti questi elementi certamente mi fanno dire che le operazioni devono essere valutate anche in chiave retrospettiva in modo diverso. Ecco, in questo senso una grande banca, una banca come la vostra, una tra le più grandi banche italiane, può continuare, lo accennava già all'inizio, può continuare a restare una banca popolare, una banca che le sue fondamenta anche strutturali in alcuni elementi caratteristici? Ma questa è la scommessa, diciamo, che abbiamo posto alla base del nostro progetto, anche l'incontro con la popolare, diciamo, lodigiana è nata proprio sul fatto che volevamo essere capaci di aggiungere, no, di fare una somma di banche locali senza cancellare le identità locali. E abbiamo visto che in effetti è difficile, no? Non è che si possa aggiungere banche e facilmente mantenere l'identità, portare a casa solo i vantaggi. Oltre una certa dimensione nascono proprio problemi di complessità notevoli. Ecco. Però io credo che aver toccato con mano questi inconvenienti non significa che non li stiamo affrontando e non significa che non ci siano soluzioni. Probabilmente, oltre alle soluzioni già collaudate, ci vuole anche qui forse un po' di coraggio e di innovazione, no? Per cercare di coniugare il localismo e renderlo compatibile con una dimensione più ampia. Quante persone partecipano alle vostre assemblee? Diciamo che abbiamo avuto numeri veramente impressionanti, credo forse il numero più alto è stato all'assemblea scorsa, dove siamo arrivati, diciamo, nell'arco della durata dell'assemblea ad oltre 11.000 presenze, di cui 9.000 fisiche, mi pare meno di 2.000 per delega. Un solo aspetto vorrei sottolineare, no? Molto spesso si sottolinea che questi numeri in percentuale dicono poco, perché anche 10.000 persone, certo, sono il 5% della nostra base sociale. Però è anche vero che 10.000 persone, tutte con lo stesso voto e con lo stesso voto capitario, in un'assemblea che può avere qualsiasi esito perché non ha una maggioranza precostituita, no? E può avere nei momenti topici effettivamente anche spaccature significative nella compagine sociale, è un elemento di democrazia che certamente è migliorabile sotto tanti profili, ma probabilmente è un elemento di democrazia economica come non ce ne sono altre nel sistema delle società quotate. Quindi sicuramente la partecipazione è qualcosa di più di un semplice simbolo, qualcosa di concreto, quindi lei crede nel modello delle banche popolari e, guardando un po' in avanti, la responsabilità del banchiere, la responsabilità in questa società che ha bisogno dei banchieri, perché le imprese hanno bisogno delle banche, le famiglie hanno bisogno delle banche, in una fase come questa di crisi economica, di difficoltà per le famiglie e per le imprese, sente una responsabilità maggiore come banchiere e come banchiere di una banca popolare? Ma certamente la responsabilità è molto forte, no? È molto forte perché sicuramente la situazione è complessa, le nostre piccole e medie aziende, certi distretti legati per esempio all'edilizia piuttosto che alle attività, sono profondamente in crisi, la crisi è duratura, i numeri che ci vengono presentati dai bilanci del 2009 sono numeri terribili, le prospettive future sono tuttora incerte, dal punto di vista tecnico i numeri e i rating che ci sparano, no, le nostre macchine sulla base dei sistemi di scoring costruiti sul passato e per questo anche non significativi, ci danno comunque dei rating in peggioramento, in enorme peggioramento. Eppur tuttavia, no, credo che il lavoro di una banca non è fuggire, ma è cercare di sostenere con sacrificio evidentemente degli azionisti della banca che stanno rinunciando alla remunerazione del loro capitale, ma un sacrificio che deve riguardare anche quelli che in banca lavorano, perché questo è un momento difficile, no? Io uso spesso la metafora della zattera, no? Guai a noi se pensassimo, invece che la zattera, dico, fosse una bella nave comoda dove l'importante è stare sopra, no? Non ci interessasse niente di coloro che perdono lavoro, che perdono redditività e che cadono immediatamente da una situazione normale a una situazione di disperazione. Noi dobbiamo far posto o mantenere il posto su questa nostra barca il maggior numero possibile di persone. Per farlo questo dobbiamo però stringerci e fare dei sacrifici nel momento in cui la redditività delle nostre attività, la marginalità, la necessità di presidiare meglio i rischi comportano evidentemente una riduzione dei margini, dei guadagni, una maggior necessità di capitale. Ecco, si tratta di avere un approccio, io credo, responsabile, ecco, solo in questo modo si potrà uscirne, no? Io dico sempre, credo che la ricetta sia brutta, ma mi è capitato recentemente, sia dolorosa, ma credo che bisogna guadagnare meno per lavorare tutti e per far intraprendere il maggior numero possibile di imprese. Questo è anche un'applicazione di un principio di sussidiarietà che anche le banche popolari sentono proprio, penso. Sì, siamo nate sulla sussidiarietà, no? La voglia di cercare di fare banca insieme piuttosto che comprare il danaro da una banca altra rispetto a noi. Ed è questa, no, l'aspirazione di poter fare insieme, poter fare da soli, credo che sia un obiettivo straordinario, no? Si possono, sempre che si riesca a capire che è un valore aggiunto, ecco, e che quindi ci obbliga anche a fare un qualcosa di più rispetto agli altri. Un'ultima domanda, cosa c'è nel futuro di Carlo Frattapasini? Il banchiere o magari anche il sindaco come Zanotto? Penso proprio di no l'aspetto politico, perché la politica è una malattia che si contrae in gioventù e poi da cui non si guarisce, quindi avendo avuto la fortuna di non contrarla in gioventù non credo di essere così poco avvertito, diciamo, da contrarla più avanti nella mia, quindi penso che ci sarà semplicemente la continuazione delle attività che oggi porto avanti, quelle, diciamo, professionali, legate o non legate che siano all'attività bancaria, e che poi ci possa essere una lunga attività agricola dalla quale, no, sono partito in gioventù finché facevo lo studente, che ho dovuto accantonare, ma che mi aspetta sulle rive del lago di Garda. Allora, con questo, spero di tornare. Con questo ritorno alla terra, gli auguri di buona domenica a Carlo Frattapasini, presidente del Banco Popolare, che ci ha fatto compagnia questa mattinata. Io ringrazio Valeria Bernardi in regia e Anita Panizza in redazione. Ringrazio quanti ci hanno ascoltato. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, potrà essere riascoltato in podcast sul sito www.radio24.it. Ancora buona domenica.